Letture di Radio 24. L'ultima moda dagli Stati Uniti sono le vacanze no limits. Si va in ferie quando si vuole e senza fissare un tetto di giorni. Ma ci sono i pro e i contro. Indossare gli occhiali da sole, un cappello di paglia, allontanarsi dalla scrivania e salutare i colleghi dicendo semplicemente «Ciao, vado in vacanza!» Senza mesi di preavviso per concordare il piano ferie, senza neppure controllare sulla busta paga i giorni a disposizione. Potrebbe essere il sogno di molti. In America, invece, è anche in realtà, possibilità concreta. Sono sempre più numerose le aziende che applicano la Unlimited Vacation, che cioè permettono ai dipendenti di prendere le ferie quando meglio credono e senza fissare un tetto di giorni. È un fenomeno iniziato negli anni 90, poi diffuso soprattutto nelle imprese dell'high-tech, dei servizi professionali qualificati, tra i colletti bianchi. Il dipendente deve rispettare le scadenze dei progetti cui è legato, la sua assenza non deve pesare sull'organizzazione, per il resto può partire quando e quanto vuole. Un trionfo della libera scelta? Il Wall Street Journal, che dedica un focus a questa formula adottata dalle imprese, parla di luci e ombre. Perché se molti riescono ad avere anche 4 settimane di vacanza, rispetto ai 18 giorni che sono il limite massimo negli States, è anche vero che tanti, una volta in viaggio, restano virtualmente alla scrivania, sempre collegati all'ufficio per telefono o via mail. E in Italia, patria dei 28 giorni di ferie pagate, quale impatto potrebbero avere le ferie no limits? Nei lavori impiegatizi non avrebbe senso, dice Giovanni Facco, che fa parte di GDP, Associazione dei Direttori di Risorse Umane. L'orario è già troppo spezzettato, c'è chi entra alle 9:30, chi ha la pausa pranzo ridotta e la struttura produttiva ne risente. Il problema da noi è un altro. Con i tagli del personale il lavoratore sa che nessuno può sostituirlo, quindi spesso rinuncia alle ferie e le accumula. Angelo Alfieri, direttore del personale di Sofinter, spiega che una forma di vacanza no limits esiste nella prassi anche in Italia. La concordano con l'azienda alcuni alti dirigenti che lavorano per obiettivi e spesso prendono meno giorni liberi rispetto al contratto. Le ferie, nel loro caso, non vengono contabilizzate. Alfieri non è contrario alla formula, ma può avere successo solo nei gruppi affiatati in cui c'è autodisciplina e si evitano abusi. In molte aziende, piuttosto, c'è una mentalità borbonica per cui le ferie arretrate sono viste come galloni sulle spalline. Nel paese del diritto romano abbiamo dimenticato cos'è l'ozio meditativo. Una promozione piena della vacanza no limits arriva dal sociologo del lavoro Domenico De Masi. Il lavoro è ormai soprattutto produzione di idee, dice, un processo capriccioso che richiede creatività e tempo libero. L'attuale pianificazione delle ferie risale ai primi del Novecento, all'epoca del Taylorismo. Ma allora 90 dipendenti su 100 erano operai, oggi 66 su 100 lavorano con la testa. Insomma, sia la rivoluzione delle vacanze, purché non significhi portarsi il PC in spiaggia. Se si lavora su obiettivi ben precisi, non c'è questo pericolo. E poi con più vacanze si aiuterebbero i consumi. Anche per Pietro Garibaldi, economista dell'Università di Torino, in Italia siamo ancora ossessionati dall'orario di lavoro, mentre il dipendente va valutato dal risultato. Comunque, dice, queste ferie sono impossibili nella catena di montaggio ed è impensabile il confronto con gli Stati Uniti, dove per la maternità arrivano a prendere a prestito giorni liberi dai colleghi. Salvatore Barone, che coordina il Dipartimento Settori Produttivi della CGIL, non si aspetta che questa formula prenda piede anche da noi. Abbiamo faticato perfino a introdurre il part-time. Ci sono stati miglioramenti per la vita del lavoratore. Penso alla banca ore per recuperare gli straordinari, ma il nostro sistema è basato su criteri e regole. E in fondo è giusto che resti così. Insomma, quando si tratta di ferie, forse è meglio difendere le certezze dell'Italian Way of Life. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Tiziana Testa In ferie quando vuoi, le aziende scoprono la vacanza no limits, da Repubblica del 25 luglio. Pubblicato nel 1912, Il mio Carso è libro autobiografico dove Scipio Slataper, scrittore triestino destinato a morire giovanissimo all'inizio della Prima Guerra Mondiale, racconta la bellezza di una terra aspra che in quegli anni lottava per potersi unire all'Italia. Il nostro giardino era pieno d'alberi. c'era un ippocastano rosso con due rami a forca che per salire bisognava metterci dentro il piede. E poi, non potendolo più levare, ci lasciavo la scarpa. Dall'ultime vette vedevo i coppi rossi della nostra casa, pieni di sole e di passeri. C'era una specie di abete vecchissimo, su cui s'arrampicava una glicinia rossa come un serpente boa, rugosa, scannellata, torta, che serviva magnificamente per le salite precipitose, quando si giocava a scondersi. Io mi nascondevo spesso su quel vecchio cipresso ricco di cantucci folti e di cespugli, e in primavera, mentre spiavo di lassù il passo cauto dello stanatore, mi divertivo a ciucciare la ciocca di glicine che mi batteva fresca sugli occhi come un grappolo d'uva. Il fiore del glicine ha un sapore dolciastro amarognolo, strano, di foglie di pesco e un poco come d'etere. C'erano anche molti alberi fruttiferi, amoli, ranglò, ficaie specialmente. Appena i fiori perdevano i petali e i piccioli ingrossavano, io ero lassù a gustarli, non ancora acerbi. Acerbi son buoni. Il guscio del nocciolo è ancora tenero, come latte rappreso, e dentro c'è un po' d'acqua limpidissima e ciucciosa. Poi, dopo qualche giorno, quando la mamma è uscita di nuovo per andare dalla zia, essa diventa una gomma gelatinosa dolce a sorbirsi con la punta della lingua. Ma la carne com'è buona, così aspra. Prima il dente ha paura di toccarla e la strizza guardingo mentre la lingua riccamente la inumidisce e assapora la linfa delle piccole punture. Poi la si addenta, le gengive bruciano, i denti si stringono l'uno addosso all'altro, si fanno scabri e ruvidi come pietre e tutta la bocca diventa una ricca d'acqua. Ma quando viene l'estate, per arrivare i pochi frutti rimasti, bisogna essere ghiri, andare dove gli uccelli non hanno paura, perché non sono abituati a trovarvi anche lassù. Alla biforcazione delle due frasche più alte, mi tenevo agganciato con un piede e bilanciandomi con la destra distesa, procedevo a modo di bruco con la sinistra sulla fraschetta svettante, trattenendo il respiro. Finché arrivavo al punto dove essa si piegava e a poco s'avvicinava fino alla mia bocca. Qualche volta dovevo lasciarla riscattar via perché la nonna sgridava. Allora stavo zitto, rosso, e scivolavo giù fluendo. E c'era anche, accosto al muro della strada, un tasso baccata che scortecciavo facilmente a larghi brani per vederlo più pulito e più rossiccio. Aveva al terzo piano due rami come un letto e lì dormivo qualche dopo pranzo. Oppure contemplavo tronificante la mularia stradarola che faceva arruffa di sotto a guantare le bacche rosse che buttavo giù da signore. Poi, imbaldanzita, cominciava a fiondar sassi e io allora, saltato giù come un demonio, correvo al portone, ne strappavo la verghetta di ferro che serviva da chiavistello e giù a rotta di collo per le strade, fino quasi al centro della città, con una maglietta e calzoncini a righette bianche e blu, lunghi riccioli biondi, urlando «Daghe, daghe!» E alla sera m'addormentavo disteso sul letto, mentre ancora mamma mi levava le calze piene di terriccio e ghiaiola. Cara e buona mamma mia! Allora credevo in Dio e pregavo ogni sera. Padre nostro che sei nei cieli! E poi stringevo gli occhi. Stavo fermo fermo, pensando soltanto a quella persona che desideravo Dio amasse. E questo era pregare. E pregavo per la mia bella Italia, che aveva una grande corazzata, la più forte del mondo, che si chiamava Duilio. La nostra patria era di là, oltre il mare. Invece qui, mamma chiudeva le persiane alla vigilia della festa dell'imperatore, perché noi non si illuminava le finestre e si temeva qualche sassata. Ma l'Italia vincerà e ci verrà a liberare. L'Italia è fortissima. Voi non sapete cos'era per me la parola bersagliere. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Scipio Slataper, Il mio Carso, Mursia Editore, 130 pagine, 12 euro. Basta a Lucifero, Duca, Messia. Vietati anche generale, giudice, re e cavaliere. In Nuova Zelanda è stato introdotto il divieto di nomi strani con il registro nascite, morti e matrimoni del paese, completo di lista esplicativa. Secondo la stampa locale, le autorità stanno cercando di riparare alle grosse sviste del passato, quando permisero che una innocente creatura nel 2008 venisse riconosciuta come Number 16 Bus Shelter, pensilina dell'autobus numero 16, o che due gemelli portassero a vita il segno della passione dei genitori per le sigarette, Benson & Hedges. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Vietato chiamarsi come una sigaretta» dal Magazine 7 del 28 luglio.